Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Diario di un giorno. Cronache dal sociale. Di Cristina Carpinelli. In Italia esiste ancora molto da fare se si parla di lavoro per persone disabili tra tirocini che durano praticamente una vita e impieghi non adeguati. Le persone con disabilità e le loro famiglie restano in attesa di qualcosa che spesso non arriva o arriva troppo tardi. In realtà il tema dell'accesso al lavoro per tutti è strettamente connesso al rispetto dei diritti umani, ma non solo. Una società che funziona è una società che ha un mercato del lavoro inclusivo e che a sua volta determina stabilità sociale, economica e politica. In Italia, purtroppo, a macchia di leopardo, le cose stanno migliorando, soprattutto fra le generazioni più giovani, grazie a due fattori: maggiore inclusione scolastica delle persone disabili e crescente numero di attività imprenditoriali gestite da persone con disabilità. Insomma, il percorso è tracciato, ma la strada è lunga. Uno di questi, come dicevamo, è il tema del tirocinio infinito. Questa è la testimonianza di Daniele, che da qualche mese sta lavorando nella cucina di Spazio Caroli, un luogo dove il tema dell'integrazione è centrale. Noi apparteniamo, io come altri ragazzi che lavorano qui, apparteniamo alle categorie protette e facciamo riferimento ad un'azienda che si occupa di trovare occupazione per i ragazzi con disabilità. Questa azienda ci ha appunto trovato questo piccolo tirocinio di qualche mese a me e altri ragazzi, e ne abbiamo fatti altri in precedenza. Vorresti avere un lavoro stabile anziché tanti tirocini? Beh sì, preferirei un lavoro stabile, anche perché di esperienza ne ho fatta abbastanza. Penso che un po' me lo merito, un po' sarei anche in grado di comunque reggere la pressione del lavoro, la difficoltà che si possono trovare in un posto di lavoro, poi comunque cambiare spesso cucina, personale, colleghi, non è sempre così bello, perché devi ricominciare sempre tutto da capo e dopo un po' magari uno perde la speranza. E qui secondo te come la vedi in questo spazio? Ma io lo vedo abbastanza bene, perché comunque c'è gente valida, sia il personale in cucina sia il personale di sala, del bar. È nato tutto dal fatto che io ero a casa senza occupazione e c'è stata una chiamata per me. Mi hanno detto: guarda, c'è la signora Maria Elena che organizza un corso di cucina di qualche mese, se ti interessa lo puoi fare. Al termine di questo corso, che è stato organizzato benissimo, siamo venuti a conoscenza con diversi chef di Milano che ci hanno fatto delle lezioni di pratica comunque, e alla fine di questo corso avrai la possibilità di metterti in prova in qualche ristorante, in qualche bistrò, in qualche posto comunque dove cercano anche ragazzi di categorie protette. Io l'ho fatto. Sono Paolo Ferrario, sono presidente e amministratore delegato di eWork, agenzia per il lavoro che ha dato origine a Fondazione Pino Cova in ricordo del proprio socio fondatore e che oggi fa vivere questo spazio per la città di Milano. C'è il tema collegato alla disabilità dei tirocini infiniti, no? Cioè questi ragazzi che escono da un tirocinio, entrano in un altro tirocinio. Voi avete intenzione di rompere questo anello, questo giro? Assolutamente sì, il nostro obiettivo è proprio quello, è un percorso che non si può definire nella sua durata, perché ogni disabilità, ogni difficoltà, soprattutto psichica, è diversa, quindi va affrontata nel modo e nei tempi che richiede. Però il nostro obiettivo è proprio quello, formare dei ragazzi con delle difficoltà a un lavoro, ovviamente lavori legati alla cucina, alla sala, questa è la nostra priorità. Accompagnarli in un luogo semiprotetto come può essere questo, dove sì, sono a contatto con il pubblico, ma sono seguiti anche da tutor, da psicologi, da chef che sono anche psicologi, quindi con un mix di attenzioni che crediamo sia abbastanza unico. Chef che sono anche psicologi e che sanno come gestire lo stress di chi non lavora più da tanti troppi anni. Lo chef che è in cucina, lui ha una grandissima esperienza già come docente, allora infatti è stata fatta anche una scelta su quella parte lì, cioè una persona comunque con molta pazienza, che sa insegnare, che sa seguire i ragazzi, insomma si tratta anche di quello, no? Per quello di una parte io ho molto aiuto da parte sua, perché lui sul lavoro individua molto facilmente quali sono le criticità dei ragazzi e poi lui li sa tenere. E a me questa parte aiuta molto. Poi io, se ci sono dei problemi, loro hanno dei referenti ai quali io mi metto in contatto, intentiamo aiutare i ragazzi. Però loro lavorano su una realtà che esiste, che è vera, che non tutti i giorni è uguale, che dove ci sono tante cose da preparare, dove si impara tanto dall'inizio alla fine. Un servizio del mezzogiorno, un servizio della sera con le cene. All'interno della popolazione compresa tra i 16 e i 64 anni risulta occupato solo il 31% delle persone disabili contro il 57,8% delle persone senza limitazioni. Il sud va peggio del nord e in generale ad assumere soprattutto la pubblica amministrazione. Eppure esistono storie che danno speranza. Una di queste è nel quartiere Precotto di Milano. Qui, in un ex oratorio, è nato un centro con bar, ristorante e biblioteca. Manuel lavora qui. Faccio principalmente aiuto cucina, aiuto cuoco, aiuto lo chef. E posso anche stare in sala ultimamente, l'ho fatto. Senti Manuel, tu è da poco che lavori qui, perché questo centro è stato aperto da poco? Dal 15 di luglio, precisamente. Come hai fatto ad arrivare qui? E sto in una comunità e le mie referenti, diciamo, perché cercano opportunità lavorative, mi hanno trovato questo contatto con Fondazione Cova e quindi con questo ristorante che assume persone che hanno avuto difficoltà o che hanno problemi. Sì, era tanto che non lavoravo, appunto. E è bello perché mi occupa il tempo e poi c'è anche il guadagno, giustamente, che fa sempre piacere. Cioè, ti senti finalmente di avere un ruolo? Certo, certo. Quanti anni hai? 26, quasi 27. È un lavoro che ti piace fare? Cioè, diciamo, proprio lavorare in cucina è una cosa che ti piace? Sì, sì, sì. Anche in sala mi piace. Mi piacciono tutti e due i lavori, perché in sala stai a contatto con la gente e invece in cucina puoi imparare tante cose. So che sembrano sono due cose diverse, ma mi piacciono tutti e due. E il tuo sogno nel cassetto, il tuo lavoro che vorresti fare? Sempre nell'ambito della ristorazione. Lo chef? Magari. Ci vuole bisogna fare tanta esperienza per arrivare a un livello che ti possa mantenere. Anche Bessi, che aveva difficoltà economiche, ha ricevuto un'opportunità. Sono Bessi Vicista, qui sono come addetta sala. Qual è la tua storia? Cioè, come mai sei qui, in questo spazio? Cioè, perché chi ti ha contattato per venire qui? Io non conoscevo questo spazio, la preside dell'asilo Merruccia, dove abito da 2 anni, lei mi ha presentato qui. Com'è per te lavorare in questo posto? È stato bello avere questa chiamata, poter entrare, venire qui, non so, ogni giorno, avere un posto dove andare a lavorare? Allora, visto che c'era il caso del Covid, io sono una madre di 3 figli, era molto difficile la fase che stavo passando, perché cercavo lavoro, quindi era necessario di trovare un lavoro e era per sopravvivere, diciamo, perché cresco da sola i miei 3 figli. E quindi più era scaduto anche il mio permesso di soggiorno e per caso del Covid erano tutte chiuse, era un momento molto difficile. E avere questa possibilità dopo questo momento molto difficile, è stato una cosa come un sogno, diciamo così, molto bello. Come funziona qui la tua... cioè tu non sei in tirocinio, sei stata già assunta o sei in tirocinio? Allora, io sono stata assunta, non sono venuta in tirocinio perché ho avuto delle poche esperienze come addetta sala, diciamo. Non tanto, ma lo sapevano già dall'inizio, ma mi hanno dato questa possibilità e io ho fatto di tutto per imparare, diciamo. Qual è la cosa che ti piace di più di questo lavoro? Allora, quello che mi piace è che mi trovo bene, soprattutto non l'aspettavo, nel senso non sono abituata di trovare uno... di lavorare con persone così molto gentili, sensibili, che ti fanno stare, che ti danno la possibilità di essere se stessa, di esprimere per quello che pensi. Per me è fondamentale per sentirmi bene e questa cosa l'ho trovato qui. Parlo per i capi io, è per me una fortuna enorme questa cosa. Credo che uno dei motivi che è andata bene, che sto andando bene nel lavoro, è che mi hanno dato questa possibilità di rispettare i miei passi, nel senso che non sapevo molto bene, che ho anche difficoltà nel esprimermi in italiano, ma mi hanno dato questa possibilità di andare piano e io, perché l'hanno rispettato questa cosa, sto andando meglio, credo, nel senso do tutta me stessa con tutto il mio cuore, perché credo questo è il segreto, solo che loro lo sanno e in generale non lo sanno tutti. Ci fermiamo qualche istante e torniamo tra poco. Diario di un giorno. Cronache dal sociale. Siamo all'interno di Spazio Caroli, un luogo dove il tema centrale è l'integrazione e la condivisione con il quartiere, come ci spiega la coordinatrice del centro. Io sono Lucia Borso, sono psicologa di formazione specializzata in processi di inclusione sociale e lavorativa e sono la direttrice di Fondazione Pino Cova. Lucia, ci troviamo in questo spazio che ha tantissime possibilità. Abbiamo visto prima, facendo un giro, la biblioteca, uno spazio espositivo di incontro, il bar. Ci racconti un po' come funziona soprattutto il tema dell'inclusione? Certo, allora Spazio Caroli è uno dei progetti di Fondazione Pino Cova si profila come un community hub, quindi un hub multifunzionale aperto alla comunità del quartiere e della città e ha in sé molte anime, molte attività, tutte appunto a disposizione dei cittadini. Tutte queste attività mirano all'inclusione di persone che hanno storie di fragilità o di emarginazione sociale. Quindi abbiamo un bar bistro, Caroli Bistro, che include all'interno del suo organico ragazzi e ragazze con disabilità di vario tipo o insomma storie difficili alle spalle, che sono pronti a inserirsi all'interno di un percorso di inclusione, di avvicinamento al lavoro, e quindi diciamo più di metà del nostro organico è composto da ragazzi che stanno facendo un percorso di questo tipo. Poi abbiamo un'area giochi inclusiva, quindi un parco giochi di legno fatto appunto per i bambini insomma con difficoltà, insomma aperto a tutti, quindi anche per bambini e bambine con delle difficoltà, quindi accessibile al 100%. Poi abbiamo uno spazio espositivo aperto al quartiere, alla città, dove facciamo mostre, presentazioni di libri, eccetera, eventi per lo più gratuiti che vogliono avvicinare appunto i cittadini del quartiere alla cultura. Poi abbiamo una biblioteca inclusiva, diciamo sviluppata e appunto resa ancora più accogliente grazie a un progetto del Ministero dei Beni Culturali. La biblioteca è gestita in sinergia con Fondazione Bertini, che è una onlus che si occupa proprio di inclusione di persone con storie di disagio mentale. Poi abbiamo un centro Job Station è un progetto diciamo realizzato in collaborazione con Fondazione Italiana Accenture e Progetto Itaca e altri enti del terzo settore, per cui persone con storie di disabilità di tipo psichico, quindi la più difficile dal punto di vista dell'accesso al lavoro, possono lavorare da qui in uno spazio appunto accogliente, confortevole, inclusivo, seguite da tutor esperti, quindi psicologi che le seguono nella quotidianità. appunto queste persone all'interno di un percorso, diciamo, riabilitativo si avvicinano al lavoro grazie al centro Job Station, e da Job Station lavorano per altre aziende che collaborano al progetto e hanno adottato questo modello. E appunto le persone possono fare qui un periodo di tempo che le permette di avvicinarsi al mondo del lavoro e al mondo aziendale, quindi per non essere subito esposte al mondo aziendale, che spesso per le persone che hanno disabilità psichica espone appunto a agenti stressogeni, qui trovano un luogo accogliente e tranquillo e pacifico dove lavorare. Grazie a questo lo spazio viene frequentato e lo spazio è vivo e vitale, e grazie a questo le persone trovano occasioni occupazionali. Ristorante, bar, giardino, uno spazio per mostre, tutto accessibile e aperto a tutti. Uno spazio che sembra davvero rivolto al futuro e che apre alla speranza, come la biblioteca sulle cui mensole stanno libri regalati da persone del quartiere, spazi sfruttati anche dalla scuola di zona. Sono Matteo Barbieri, mi occupo della biblioteca, sono il coordinatore della biblioteca inclusiva. Quindi il lavoro sia di bibliotecario vero e proprio, quindi catalogo, schedatura, catalogazione, e anche il coordinamento degli eventi, dei corsi e dei volontari che ci stanno aiutando per la schedatura. Arrivano bambini, famiglie, chi è che arriva? Qual è l'utente di questo spazio? L'utenza è abbastanza variegata. Molti giovani in età scolare che magari vengono a studiare o a prendere dei libri anche più di intrattenimento, diciamo così, e non mancano alcuni studenti invece universitari che magari abitando in zona vengono qui con il proprio materiale, e qualche persona invece più avanti con l'età che magari trascorre qualche ora di lettura in sala. Cos'è che ti piace di questo lavoro? Ma il lavoro è sicuramente interessante per le due nature che ha: da una parte quella di un lavoro che può essere anche visto come ripetitivo ed è molto di attenzione, cioè quello di biblioteca pura, che ha però anche la parte di front office, quindi di interazione col pubblico, con le persone, di quasi da libraio nell'indirizzare le scelte di lettura, e poi anche la parte invece più gestionale, più organizzativa, quindi di proporre, cercare degli interessi e proporre degli avvenimenti o dei corsi che possano interessare le persone e farle crescere in quel modo. Quello che si fa in questo posto è stare assieme, nel ristorante e nel bar, nella biblioteca e nell'area in cui i ragazzi imparano a lavorare da remoto per grandi aziende. Io sono Rossella Domestico, seguo il progetto Job Station in qualità di tutor, quindi accompagno questi ragazzi che hanno una disabilità psichica nel loro inserimento in azienda. Sono tutti assunti oppure lavorano con tirocinio, e questo è un centro di smart working appunto assistito. Il bello di questo progetto, io ho fatto selezione per molti anni, che di solito quando si pensa ai ragazzi con disabilità psichica vengono un po' lasciati alla cura del verde, e invece con Job Station ritrovano tutte quelle competenze che avevano, che poi la malattia che insorge sembra annientare. Invece in Job Station si riprende parte di quelle competenze e li si riabilita, e questa è la parte più bella. E come è cambiato anche il mondo delle aziende rispetto a questo tema dell'integrazione? Devo dire che c'è una nuova apertura, le aziende sono decisamente più sensibili adesso a questo tema e hanno voglia di avvicinarsi a questa nuova sfida. Quindi se inizialmente, prima negli anni scorsi, si chiedeva un disabile che in realtà non avesse grandissime disabilità e la disabilità psichica spaventava tantissimo, adesso invece c'è voglia appunto anche da parte delle aziende di dare un'opportunità, anche perché il modello ad esempio Job Station ha dato testimonianza che si possa inserire con successo questi ragazzi all'interno della propria azienda. Noi abbiamo ragazzi che sono cresciuti tantissimo, che da semplice data entry oggi parlano due lingue fluentemente e sono davvero parte del team, quindi hanno sviluppato competenze professionali importanti. quindi per noi questo è importantissimo ed è quello che cerchiamo di fare arrivare alle aziende e che le aziende apprezzano di questo progetto, perché spaventa quello che non si conosce. Quindi quando poi li si vede, molto spesso noi invitiamo le aziende qui proprio perché possano vedere come lavorino realmente. E il bello è la sorpresa che hanno nel vedere questi ragazzi che alla fine sono perfettamente integrati. E sicuramente ci vuole impegno, le difficoltà ci sono, però con un buon team si superano e può essere una scommessa vincente, è un modo per le aziende davvero di dare qualcosa in più anche agli altri dipendenti, perché questo è quello che ci raccontano poi tutti i supervisor che sono i tutor aziendali. Questi ragazzi danno una lezione di vita, mi viene da dire, anche alle altre persone, perché la dedizione con cui la mattina si svegliano, vengono qui, lavorano, cercano di superare i loro limiti, è davvero un insegnamento per tutti. Ci fermiamo qui. Come sempre grazie per essere stati con noi. Potete scrivermi a diario@radio24.it. Un saluto da Cristina Carpinelli. Diario di un giorno. Cronache dal sociale. Tutte le puntate sono disponibili in podcast su radio24.it. Puoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.